Capitolo 115. Le Erinni placate. In segno di gratitudine per la sua assoluzione, Oreste dedicò un altare ad Atena guerriera, ma le Erinni minacciarono, se la sentenza non fosse stata mutata, di lasciar cadere sull'Attica una goccia del sangue del loro cuore, che avrebbe isterilito il suolo, distrutte le messi e ucciso tutti i fanciulli di Atene. Atena tuttavia riuscì a placare la loro collera con l'adulazione, finse di ammettere che le Erinni erano molto più sagge di lei e propose loro di stabilirsi in una grotta nei pressi di Atene, dove sarebbero state onorate da una folta schiera di devoti, quale mai avrebbero potuto sperare di trovare altrove. Atena promise loro altari di zolle sacri agli dei catactoni, sacrifici, libagioni versate al lume delle torce e offerte di primizie dopo la consumazione di ogni matrimonio e la nascita di ogni bambino. Promise persino dei seggi nell'Eretteo. Se avessero accettato questa proposta, nessuna casa ateniese che non onorasse le Erinni avrebbe potuto godere per decreto di Atena benessere e prosperità, ma esse in cambio dovevano impegnarsi a invocare venti favorevoli per la flotta della città e messi abbondanti per la sua terra e matrimoni fecondi per i suoi abitanti, estirpando però la razza degli empi, cosicché ad Atene fosse assicurata la vittoria in guerra. Le Erinni, dopo breve deliberazione, di buon grado accettarono l'offerta di Atena. Con manifestazioni di gratitudine, auguri e formule magiche contro i venti contrari, i parassiti del grano, la siccità e la rivolta, le Erinni, da quel giorno invocate col nome di Venerande, si congedarono da Atene e furono accompagnate dal popolo in una processione di giovani, matrone e vecchie, vestite di porpora che portavano l'antica immagine di Atena fino all'ingresso di una profonda grotta sul lato sudorientale dell'Areopago. Degni sacrifici furono loro offerti e poi esse discesero nella grotta che ora è sia un oracolo, sia, come il santuario di Teseo, un luogo di asilo per i supplici. Soltanto tre delle Erinni, tuttavia, avevano accettato la generosa offerta di Atena. Le altre continuarono a perseguitare Oreste e taluni arrivano a negare che le venerande fossero le Erinni. Il nome di Eumenidi fu dato per la prima volta alle Erinni da Oreste, l'anno seguente dopo la sua rischiosa avventura nel Chersoneso Taurico, quando finalmente gli riuscì di placare la loro collera a Carnea con l'olocausto di una pecora nera. Esse sono chiamate Eumenidi anche a Colono, dove nessuno può entrare nella loro antica grotta e nella Chea Cirinea, dove, verso la fine della sua vita, Oreste dedicò a esse un nuovo santuario. Nella grotta delle Venerande ad Atene, che è preclusa soltanto ai redivivi, vale a dire a coloro che furono prematuramente pianti come morti, i loro tre simulacri non sono più terribili a vedersi di quelli degli dei catactoni schierati lì accanto, cioè Ade, Ermete e la dea Terra. Coloro che l'Areopago ha assolto dall'accusa di omicidio vanno lassù a sacrificare una vittima nera. Numerose altre offerte vengono recate alle venerande, secondo la promessa fatta da Atena, e ciascuna delle tre notti fissate ogni mese dall'Areopago per discutere i casi di omicidio è dedicata a una di loro. I riti delle venerande si svolgono nel silenzio e vengono amministrati da sacerdoti che appartengono ereditariamente al clan degli Esichidi. Essi offrono un'ariete in sacrificio preliminare al loro antenato Esichio, nel santuario eroico all'esterno delle nove porte. Un altare di terra è stato innalzato alle venerande a Flia, un piccolo borgo dell'Attica, e un boschetto di querce sempreverdi è stato loro consacrato presso Titane, sulle rive del fiume Asopo. Colà, nel corso della festa che viene celebrata ogni anno, si sacrificano pecore gravide e si fanno libagioni di acqua e miele e i partecipanti si cingono il capo con corone di fiori anziché di mirto. Riti analoghi si compiono presso l'altare delle Moire, che si trova nel boschetto di querce esposto alle intemperie. Il sangue del cuore delle Erinni che esse minacciarono di spargere sull'Attica pare fosse un eufemismo per sangue di mestruo. Un antichissimo sortilegio praticato dalle streghe che volevano maledire una casa o un campo consisteva nel corrervi attorno nude nella direzione opposta a quella del sole per nove volte mentre erano mestruate. Queste Questa maledizione veniva considerata pericolosissima per il bestiame e i bambini durante una eclissi di luna, catastrofica e non scongiurabile se la strega era una vergine mestruata per la prima volta. Filemone, il commediografo, a buon diritto mise in dubbio l'identificazione delle erinni con le venerande di Atene. Secondo le fonti più autorevoli vi erano soltanto tre erinni, Tisifone, Aletto e Megera, che vivevano in permanenza nell'Erebo e non ad Atene. Avevano teste di cane, ali di pipistrello e serpenti in luogo di capelli, mentre, come ci fa notare Pausania, le venerande erano descritte come auguste matrone. La proposta di Atena non fu in verità quella che Eschilo descrive, ma un ultimatum dei sacerdoti della figlia di Zeus alla sacerdotessa delle venerande, l'antica triplice dea di Atene, cioè che se non avessero accettato il nuovo principio della superiorità del padre sulla madre e consentito ad accogliere nella loro grotta divinità catactoni maschili come Ermete e Ade, sarebbe stata negata a esse ogni forma di culto e le tradizionali offerte di primizie. I cosiddetti redivivi non potevano entrare nella grotta delle divinità catactoni perché esse potevano offendersi vedendo che individui già consacrati all'oltretomba vagavano ancora nel mondo dei vivi. Una situazione ugualmente imbarazzante si crea in India quando un uomo si risveglia dalla catalessi mentre è già sulla via del crematorio. Nel secolo scorso, secondo Rudyard Kipling, a questi infelici era negato un riconoscimento ufficiale ed essi venivano isolati nella colonia dei morti. La quercia sempreverde, detta anche kerm, perché dà le bacche dalle quali i greci estraevano la tintura scarlatta, era l'albero del successore che uccideva il re sacro e perciò ben si addiceva al boschetto delle venerande. I sacrifici di pecore gravide, di miele e di fiori dovevano indurle a risparmiare il resto del gregge durante la stagione degli agnelli e a favorire il raccolto del miele e ad arricchire i pascoli. Il fatto che le erinni continuassero a perseguitare Oreste, nonostante l'intervento di Atena e di Apollo, ci lascia supporre che, nel mito originale, egli si fosse recato ad Atene nella Focide per purificarsi, ma senza successo. Così come nel mito di Erifile, Alcmeone si recò invano a Psofide in Tesprozia. Poiché non pare che Oreste abbia trovato pace nel terreno alluvionale di alcun fiume, salvo forse lo Scamandro, egli morì probabilmente nel Chersoneso Taurico o a Braurone.